Economia. Con Vincenzo Miglietta. Diciassette e zero otto, un saluto da Vincenzo Miglietta, puntata di oggi di Focus Economia che si svilupperà lungo un asse portante, ovvero le parole di oggi del Presidente del Consiglio Gentiloni, che ha tenuto la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Dall'attualità politica allora ai temi che sono più vicini a questa trasmissione, quindi banche, rilancio della crescita, lavoro e occupazione. Altro contributo al dibattito arriva anche dalle parole del Ministro dell'Economia Padoan, ospite di un forum del Sole 24 Ore, e qui quello che ci interessa è soprattutto il lato del credito, con la vicenda del Monte dei Paschi di Siena e i rapporti con la Banca Centrale Europea. Subito una premessa a cui tengo, immagino già le osservazioni che ci farete al 349-238-6666, ovvero che si darà troppo spazio al governo. Dico subito allora che, al di là delle simpatie ed antipatie, a parlare sono il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Finanze, ruoli istituzionali, e quindi è doveroso riportarli. Quando a governare saranno altre persone, faremo lo stesso come abbiamo sempre fatto. Detto questo, prima delle notizie in breve, diamo un rapido sguardo ai listini in questo momento. Allora, il FTSE MIB meno 0,24%, i migliori e i peggiori proprio del FTSE MIB, li leggiamo insieme: i migliori Terna, Ricordati, Moncler, Snam e Italgas, i peggiori sono Banco Popolare, Banca Popolare di Milano, UbiBanca, Tenaris e Unicredit, i più scambiati Intesa San Paolo, Unicredit, Enel e Fiat Chrysler. Gli altri listini: il DAX Francoforte meno 0,35, Londra meno 0,04, Parigi meno 0,35, Madrid meno 0,18, Wall Street, Dow Jones in questo momento meno 0,03, Standard & Poor's meno 0,05, Nasdaq meno 0,15, il cambio euro-dollaro 1,0405, e lo spread per chiudere, vediamo subito, l'Italia verso logicamente il Bund tedesco 162,80 più 0,37%. Ricordo che potete scriverci allora al 349-238-6666. Passiamo ora alle notizie in breve. Per le notizie in breve partiamo subito dalle materie prime. L'oro, la quotazione 1147,93 dollari l'oncia più 0,56%, il petrolio WTI 53,91 dollari il barile meno 0,28%. Donald Trump prende le distanze dalle intenzioni dell'amministrazione Obama di punire la Russia con sanzioni e attacchi informatici per le sue presunte interferenze nelle presidenziali. Penso che dovremo andare avanti con le nostre vite, ha risposto ai cronisti nella sua residenza di Palm Beach. Credo che i computer, ha proseguito Trump, ci abbiano complicato enormemente la vita. L'era dei computer ci ha portato al punto per cui nessuno è più in grado di dire davvero cosa stia succedendo. Ora in Italia il Tesoro ha collocato tutti i 5 miliardi di euro di BTP a 5, 10 e 30 anni offerti oggi in asta, con i tassi in calo rispetto ai massimi del 2015 toccati nel collocamento di novembre scorso. Il rendimento medio del quinquennale è sceso allo 0,54% dallo 0,91 di novembre, e quello del decennale è calato all'1,77 da 1,97 precedente. Il tasso del trentennale con vita residua di 10 anni a scadenza novembre 2026 è pari a 1,71, assegnati anche i CCT europei con scadenza 2024 per 1,75 miliardi di euro. E poi è molto nutrito, come sempre, l'aspetto che ci offre l'Istat con l'annuario. L'Italia è sempre più un paese di anziani. Al 31 dicembre 2015 ogni 100 giovani c'erano 161,4 over 65 rispetto ai 157,7 dell'anno precedente. L'Istat e il lavoro, sommando ai disoccupati le forze di lavoro potenziali, ammontano a 6,5 milioni le persone che vorrebbero lavorare, lo dice quindi l'annuario statistico, che riepiloga la situazione sul mercato del lavoro nel 2015, spiegando che le forze di lavoro potenziali sono rappresentate da persone che non cercano un impegno ma sarebbero pronte ad accettarlo, o che lo cercano ma non sono subito disponibili. Questo è un dato interessante, sempre dall'Istat, relativo alla proprietà delle case. Nel 2015 calano sia le famiglie proprietarie dell'abitazione in cui vivono, da 81,5% del 2014 all'81%, sia quelle con un mutuo in corso, dal 19,3% del 2014 al 17,7%. La rata media mensile del mutuo è di 586,41 euro, ma varia dai 619 del centro Italia e 497 delle isole, mentre nelle città metropolitane si raggiungono i 636 euro mensili. Ed ancora, sempre l'Istat, nel 2016 le famiglie continuano a dichiarare difficoltà di accesso a molti servizi di pubblica utilità, in particolare per il pronto soccorso, ben il 55,5%, seguono le forze dell'ordine, quindi l'accesso all'aiuto delle forze dell'ordine 36,4%, agli uffici comunali 34,1%, supermercati 28,5%, agli uffici postali 25,6%. L'Istat e le pensioni: per il pagamento di pensioni e rendite sono stati spesi 259,3 miliardi di euro, un esborso in continua crescita nel tempo, dice l'Istat, ma con un rallentamento negli ultimi anni, dal più 2,1% del 2012 al più 0,7% del 2015, a seguito questo delle manovre di contenimento della spesa pubblica. Ancora un dato interessante dall'Istat: il numero dei comuni italiani è sceso sotto quota 8.000, ad aprile 2016 erano esattamente 7.999, un numero inferiore a quello rilevato dal censimento del 1961. Veniamo all'Alitalia. Dal 1 febbraio 2017 la tratta operata dall'Italia che collega Fiumicino a Malpensa non sarà più attiva, quanto confermano fonti aziendali. Notizie anche oggi per Almaviva: la sede di Roma del call center Almaviva Contact chiude e le lettere di licenziamento dei 1.666 dipendenti sono già tutte partite. Secondo fonti del Ministero dello Sviluppo Economico, l'ultimo tentativo, con la riapertura del tavolo oggi, è infatti fallito. E su questo abbiamo il commento del vice ministro allo sviluppo economico Teresa Bellanova, che dice: le RSU hanno ritenuto quell'accordo inaccettabile, quindi hanno determinato la perdita di lavoro di oltre 1.600 persone. Rapidamente andiamo in chiusura di queste notizie. In breve però dobbiamo ricordare che sono 41 i viceministri e sottosegretari nominati oggi dal Consiglio dei Ministri, che ha confermato la squadra del governo Renzi. Poche le novità: oltre alla rinuncia di Enrico Zanetti, c'è il passaggio dal Ministero dell'Istruzione a quello della Salute di Davide Faraone, percorso invece inverso per Vito De Filippo, che arriva al Dicastero guidato da Valeria Fedeli. E il Consiglio dei Ministri, che ha nominato sottosegretari e viceministri, però non ha sciolto il nodo delle deleghe, sia quello per i servizi sia quello del CIPE. Tra poco parleremo abbondantemente delle parole del Presidente del Consiglio Gentiloni, però analizzeremo soprattutto sotto l'aspetto economico. Ricordo invece quello che il Presidente del Consiglio ha detto di più largo respiro per il Paese, e Gentiloni ha detto: ricucire il tessuto della coesione è la premessa per avere sviluppo e sicurezza. Nel prossimo anno, ha sottolineato Gentiloni, il governo si impegnerà a risolvere i problemi del Paese, cercando di risolverli diffondendo la sicurezza, certi che lo Stato c'è, che le nostre istituzioni funzionano, di cui Mattarella è il massimo garante. Per quanto riguarda il voto, quindi l'ipotesi di andare al voto, la stabilità di un paese a livello internazionale è sempre importante, ma la stabilità non può rendere prigioniera la democrazia. Queste le parole del Presidente del Consiglio Gentiloni su il probabile ricorso alle urne anticipate. Con le notizie in breve mi fermo qui e passiamo al nostro primo approfondimento. Dicevamo del nostro primo approfondimento, quindi le parole del Presidente del Consiglio Gentiloni, parole che ci accompagneranno un po' per tutta la trasmissione. Per i vostri commenti, ricordo il 349-238-6666. Mi aiuta a comprendere meglio quello che ha detto il Premier, il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti, che saluto. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi, grazie. Allora, Alessandro, dico subito, cioè anticipiamo quello che ha detto Gentiloni aprendo la conferenza stampa. Dice: sono stati 15 giorni molto impegnativi per me. Servire le istituzioni, oltre a essere una gran fatica, è un fatto di grandissimo rilievo. Allora, la prima domanda che ti faccio, è possibile che in 15 giorni, per quanto Gentiloni abbia poi già fatto parte del governo Renzi, si riesca ad entrare nella macchina di Palazzo Chigi? Ma diciamo così, più che entrare nella macchina di Palazzo Chigi, è rientrato nella macchina della politica e dell'amministrazione italiana. Questo ricordiamo sempre. Io penso sia importante ricordarci che abbiamo cambiato un governo l'anno dal dopoguerra, quindi se non fosse così l'Italia probabilmente sarebbe anche peggio, considerato che cambiamo in media un Presidente del Consiglio l'anno. Allora, 15 giorni c'è tanto o poco. Certamente dopo il referendum e le dimissioni di Renzi si è percepita una grande urgenza di dimostrare che il paese non si era fermato. Ricordiamo bene questo, certo. Perché la non era, ho sentito tanti commenti in questi giorni anche chi diceva a mettere in sicurezza il paese, non è che si mette in sicurezza il paese in 15 giorni, quindi naturalmente siamo come prima, però se non altro ci sono stati alcuni provvedimenti, come per esempio quello delle banche, che andavano presi e andavano presi con grande rapidità. E in questo senso penso che Gentiloni abbia, diciamo così, tenuto un po' le redini del dibattito, ha dato un po' di tranquillità, forse anche grazie un po' alla sua immagine, che sicuramente è meno ansiogena dei volti che abbiamo visto finora negli ultimi tempi, quantomeno. Quindi ecco, direi così, insomma, per riassumere, sicuramente la gestione della politica italiana adesso, fatte le grandi riforme strutturali che sono state quelle che abbiamo visto negli anni passati, gli ultimi due anni, adesso non si trattava, era impossibile riuscire a fare una riforma elettorale in 15 giorni, come ho sentito dire dopo il referendum. No, per cui si sta lavorando. Lui sicuramente ha il timone in mano in questo momento e vediamo un po' come finirà. Qui siamo tutto, sentiamo enunciazioni e annunci ancora, ricordiamo, qui non abbiamo ancora visto. E dicevi Alessandro, giustamente Gentiloni arriva, lo ricordiamo, ma i nostri ascoltatori lo sanno bene che è un governo questo che nasce da quanto è successo il 4 dicembre. Allora sentiamo proprio dalle parole di Gentiloni il passaggio che vi è stato con le dimissioni di Renzi. Sono stati 15 giorni molto impegnativi, per me anche, se posso dire, entusiasmanti, nel senso che per chi fa il mio lavoro, in fondo, servire le istituzioni con il livello massimo o tra i livelli massimi di responsabilità, oltre a essere una gran fatica, è ovviamente un fatto di grandissimo rilievo e appassionante. Il governo nasce, come sapete, all'indomani delle dimissioni di Matteo Renzi, provocate dalla sconfitta nel referendum. Quel risultato referendario non si cancella e certamente noi lo abbiamo ben presente, ma non deve cancellarsi neanche il lavoro che il governo guidato da Matteo Renzi, di cui io ho fatto parte, ha svolto nei due o tre anni precedenti. Cancellarlo o relegarlo nell'oblio sarebbe, dal punto di vista nostro, politico e vostro, dell'informazione, un errore. Queste dunque le parole di Gentiloni. Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore, il Premier giustamente ricorda quanto fatto dal governo Renzi e rivendica, poiché faceva parte anche del precedente esecutivo, quanto fatto nei due anni di lavoro. Adesso poi andremo ad analizzare ogni singola riforma fatta e poi parleremo anche del settore delle banche, ma Alessandro, è una rivendicazione giusta questa da parte di Gentiloni, non cancellare quanto fatto dall'esecutivo precedente? Beh, possiamo spiegarla così, poiché è un governo di continuità di fatto, no? Stiamo dicendo tutti quanti, è un po', è un'emanazione del precedente, via, è un governo di continuità e quindi il richiamo al lavoro svolto era prevedibile, nel senso lui rivendica di essere stato in un governo che è caduto per le dimissioni del Presidente del Consiglio in conseguenza di un atto politico, non era un atto che derivava da una crisi parlamentare ovviamente, no? Per cui è stata una responsabilità che si è preso Renzi e si è dimesso. Allora lui dice, se siamo caduti non è stato per il lavoro cattivo che abbiamo fatto, ma per un fatto politico. Renzi doveva andare per il referendum, dietro le parole che ha utilizzato, insomma, possiamo dare il senso. Quindi, che poi tutto sommato non gli si può dire che non sia vero, perché le riforme le hanno fatte, poi non sono piaciute a tutti, ovviamente, come sempre sono le riforme. Lezioni le hanno prese anche loro, perché mi sembra che ormai tutti abbiano capito che quando si vogliono fare delle riforme importanti per la vita dei cittadini, vanno prima spiegate bene ai cittadini e poi lanciate istituzionalmente, perché altrimenti si rischia di schiantarsi contro un muro, insomma l'abbiamo visto non soltanto in Italia. Certo, ti riferisci alla personalizzazione, certo, logico. Certo, soprattutto la personalizzazione e soprattutto, ripeto, quello di dare per scontato che il Paese abbia capito il senso delle riforme, soprattutto quelle più progressiste, chiamiamo così, come poteva essere anche una riforma istituzionale, cancellando un'istituzione, modificando i poteri del Senato e la riforma elettorale. Invece gli italiani, io sinceramente su questo posso dirmi sinceramente di averlo percepito, nessuno ha approfondito la reale portata di quel referendum, ma l'hanno politicizzato e basta, era un referendum su di lui, come hanno detto tutti. Quindi vuol dire che in questo senso doveva spiegare meglio e perché voleva fare quella riforma e poi presentare comunque la riforma in Parlamento prima che appunto finisse la Costituzione, finisse poi in un referendum. Questa credo che sia la grande morale per tutti i governi. Oggi, se si vuole fare riforme di tipo progressista, quelle che aprono la società, bisogna spiegarle molto bene prima, perché altrimenti il rischio è che poi accusano il populismo, gli immigrati, il terrorismo. Attenzione, perché oggi la domanda che viene dalla cittadinanza, dai paesi, è quella: fateci partecipe di qualunque decisione riguardi la nostra vita futura. Quindi dicevamo, quindi le riforme, far partecipe la popolazione di quanto si andrà a fare. E Gentiloni ha parlato allora delle riforme e per lui le parole chiave sono lavoro, sud e giovani. Ascoltiamo questo passaggio. Il governo proseguirà sulla strada delle riforme. Il messaggio è molto semplice: non abbiamo finito. E soprattutto non abbiamo scherzato. E tutti devono essere consapevoli che il percorso di riforme, per il tempo che avremo a disposizione per lavorare, andrà avanti. Ci sono capitoli da completare, altri su cui concentrare i nostri sforzi. Per me le parole chiave, l'ho già detto in Parlamento, sono il lavoro ai giovani e Sud, ma non perché poco si sia fatto, anzi, sia sul lavoro che sul Sud il governo fin qui ha moltiplicato i suoi sforzi, ma per la distanza tra questi sforzi, per quanto siano stati intensi, e i risultati che dobbiamo raggiungere. Dobbiamo essere consapevoli che l'obiettivo del completamento delle riforme non è un puntiglio da parte mia, la rivendicazione di una continuità. È un'esigenza del Paese, perché il completamento delle riforme fa bene all'economia, fa bene alla crescita, fa bene alla semplicità del nostro Paese. Quindi è un lavoro che dobbiamo continuare a fare. Un lavoro che dobbiamo continuare a fare, quello soprattutto su Sud e giovani. Il Presidente del Consiglio Gentiloni oggi si è soffermato molta parte della sua conferenza stampa di fine anno proprio sul problema dell'occupazione. Stiamo cercando di approfondire la conferenza stampa di fine anno grazie anche al contributo del Vice Direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti. Alessandro, oggi l'Istat dice che sono ben 6,5 milioni gli italiani che sognano un lavoro. E Gentiloni dall'altra parte però rivendica la bontà della riforma fatta dal governo Renzi, di fatto con 700.000 posti di lavoro in più. Ascoltiamo questo passaggio e poi ti chiedo un commento proprio su quanto fatto dal governo sull'occupazione. L'economia è cresciuta, sia pure a un tasso che tutti noi vorremmo più elevato. È cresciuto il lavoro stabile a tempo indeterminato, circa 700.000 nuovi posti di lavoro, di cui due terzi a tempo indeterminato. In altri tempi sarebbe stato il compimento di grandi slogan, impegni, no? Abbiamo, è un risultato. Ci soddisfa, non ci soddisfa, perché soprattutto nella fascia sotto i 40 anni il lavoro da fare è ancora enorme. Alessandro Plateroti, ci soddisfa allora quanto fatto dal governo Renzi sul lavoro? Allora, diciamo questo, anche là, sulle riforme del lavoro bisogna sempre tenere presente che le riforme non creano il lavoro, semmai facilitano le condizioni del lavoro, ma non creano il lavoro. Detto questo, fa bene a rivendicare il lavoro svolto con il Jobs Act, diciamo in questi termini, pur sapendo tutti quanti che qualcosa non ha funzionato, perché lo stesso Gentiloni nel passaggio del suo intervento, per quanto riguarda il lavoro ovviamente, cita gli abusi, e gli abusi riguardano i voucher. Certo. E infatti la frase credo sia, ecco, non sono il virus che semina il lavoro nero, non hanno il copyright del lavoro nero, bisogna correggere gli abusi. Allora, volevano 2 anni? Cioè, anche là, io adesso il lavoro nostro purtroppo è quello anche di fare dei rilievi, no? Non è soltanto. Quindi colpisce il fatto che quando c'è area di referendum sul Jobs Act si accorgano che qualcosa non funzionava. Allora, anche lì, bene che se ne sono accorti, ma tardi se ne sono accorti, per cui devono correre ai ripari. Però la riforma era una riforma giusta, perché oggettivamente che ci sono delle rigidità ancora in Italia molto elevate, alcune non giustificate, altre sono ancora giustificate per le caratteristiche del nostro mondo economico e del lavoro, soprattutto quello che è, diciamo così, la nostra educazione al lavoro, ci vuole gradualità in tutto, però certamente quella è una riforma importante. E sulle pensioni si è completato un po' il lavoro che aveva fatto Brunetta prima, diciamo, sì. In questo senso bisogna dire onestamente che era un completamento del lavoro, ma l'hanno fatto. Sulla pubblica amministrazione non si è riusciti ad andare oltre, diciamo così, delle obiettivi enunciati, e poi purtroppo adesso questo sono sempre soggettivo, lo dico in questo senso, ma gli obiettivi che avevano sulla riforma della pubblica amministrazione non sono stati raggiunti naturalmente. Quindi quello è un lavoro, quando lui dice dovremo completare, è ovvio che quello è un capitolo che va completato. Poi sul mezzogiorno, la questione del mezzogiorno sta diventando un po' grottesca, no? Vedevo l'altro giorno che c'era Equitalia che aveva diffuso i dati si stava discutendo sulla questione della diffusione delle auto di grandi cilindrate in Italia. Al sud, è vero. Più della metà sono al sud. Allora, ditemi come stanno le cose tra redditi in nero, reale ricchezza, mafia e disoccupazione, sta diventando veramente una giungla che va tutto danno di chi nel mezzogiorno vorrebbe lavorare e non trova ora posto. Ora però, Alessandro, siccome bisogna comunque premiare almeno il tentativo di far emergere il nero, di qualsiasi tipo di nero si parli, e qui ti riporto ai voucher. Gentiloni dice comunque hanno contribuito a far emergere il lavoro nero, e allora farei ascoltare invece il passaggio sempre sui voucher, però quando dice che non sono comunque un virus. Ascoltiamo. C'è qualcosa da correggere e cambiare anche nei famosi voucher, senza tuttavia accedere all'idea che questi voucher siano una specie di virus che semina lavoro nero nella nostra società, perché i voucher nascono esattamente all'opposto, come un tentativo di rispondere. Non hanno il copyright del lavoro nero i voucher. Sappiamo che la realtà del lavoro nero nel nostro paese è diffusa, è molto diffusa da tempo. L'introduzione di questo meccanismo per forme di lavoro accessorio è stato un tentativo di far emergere una parte di questo lavoro, soprattutto nelle sue forme accessorie, dal nero a una situazione più regolare. E tuttavia abbiamo anche visto che ci sono cose che non funzionano. Eccessi, probabilmente settori in cui l'uso dei voucher va limitato. È in corso, come si può dire, una specie di revisione che anche la tracciabilità di recente introdotta ci aiuterà a fare, per capire come questi abusi, che rischiano di snaturare uno strumento i cui obiettivi invece erano assolutamente corretti, e come possiamo quindi correggere quello di sbagliato che evidentissimamente c'è, senza trasformare, ripeto, questo nella madre di tutti i problemi e di tutti i guai del nostro mercato del lavoro. E così dunque il Presidente del Consiglio Gentiloni sul tema dei voucher. Io chiedo la gentilezza ad Alessandro Plateroti di stare ancora con noi. Ci fermiamo un attimo, andiamo al meteo e poi affrontiamo brevemente il nodo Poletti per il governo Gentiloni, ma soprattutto la parte delle banche. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Un saluto da Edoardo Ferrara agli ascoltatori di Radio 24. Nelle prossime ore Italia spaccata meteorologicamente a metà, con le regioni meridionali bersaglio di molto fredde correnti dai Balcani, responsabili di spiccata variabilità con locali rovesci, nevosia anche a quote collinari. Il tutto accompagnato da forti venti di grecale con raffiche di oltre 60-70 km all'ora. Marginalmente coinvolto anche l'Abruzzo, con nubi in aumento nelle prossime ore e qualche fiocco di neve a bassa quota. Tempo decisamente più stabile sul resto della penisola, anche se non sempre soleggiato, per un po' di annuvolamenti medio-bassi sulla Valpadana, soprattutto centro-occidentale. Per quanto infine riguarda la giornata di domani, poche novità, con variabilità ancora al sud e ultimi fenomeni localmente nevosi fino a quote collinari. Tempo invece a prevalenza stabile e soleggiato al centro-nord. Per quanto riguarda le temperature, sono previste un ulteriore sensibile calo al sud e sul medio versante adriatico, ma nella notte anche sui restanti settori con gelate in pianura sulle aree interne. Massime invece in lieve ripresa a partire dalla giornata di domani. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale sull'app gratuita di Trebi Meteo. Focus Economia. Di nuovo insieme, 17.36, Focus Economia, 349-238-6666, ci aiuta ad analizzare le parole del Presidente del Consiglio Gentiloni, il Vice Direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti, che ringrazio anche per la disponibilità del tempo. Alessandro, abbiamo ascoltato prima della pausa Gentiloni sui voucher, il Premier dice comunque hanno contribuito a far emergere il lavoro nero, altra grana legata al tema del lavoro, quella del ruolo del ministro Poletti, ricordiamo le polemiche sui giovani del ministro. Allora, per quanto riguarda l'aspetto lavoro nero, ha ragione anche il Gentile quando dice non è che questi creano il lavoro nero, effettivamente hanno fatto emergere quanto sia profondo e radicato in Italia il lavoro nero. Adesso dall'altra parte possiamo anche dire che tutti quelli che sono emersi attraverso i voucher difficilmente potranno sparire dopo nel nulla. Mi auguro che comunque, certo, una lente ci resti sopra su tutti questi 160 milioni e rotti di voucher che sono stati venduti. A chi, e se poi quando ci saranno le nuove norme che regolano ed evitano gli abusi, vediamo un po' come si comportano questi artigiani, imprese e chiunque abbia preso i voucher. Questo è un aspetto importante. Certamente sul lavoro nero bisogna anche comunque ricordare che qua il lavoro nero purtroppo è anche un aspetto culturalmente radicato, che non è, come si dice sempre, un segno di sottosviluppo, è purtroppo per tanti un segno di necessità, perché quando si paga il 60% di tasse è ovvio che è lo stesso lavoratore che preferisce su certe cose essere pagato in nero. Per cui quando poi nello stesso discorso di oggi Gentiloni dice sull'IRPEF non prendiamo impegni, attenzione, perché insomma sono discorsi che si collegano tutti questi qua: ripresa, redditi, consumi, lavoro, tasse. Certamente, certamente. Questo per quanto riguarda i voucher. Sempre sul tema del lavoro, poi Gentiloni si è soffermato sulla vicenda del ministro Poletti, ricordiamo brevemente la polemica Poletti sui giovani che vanno all'estero, aveva detto ma non tutti. In pratica, aveva detto il ministro, sono eccezionali, nel senso che se qualcuno anche va via non è una grande perdita. Allora sentiamo su questo cosa ha detto Gentiloni. Beh, un po' più di cautela sarebbe stata provvidenziale, non c'è dubbio. Io condivido completamente le parole che ha detto il ministro Poletti nello scusarsi rispetto a quello che aveva detto prima. Dopodiché non mi rassegno all'idea che se un responsabile politico dice una frase sbagliata o perfino offensiva e dopo qualche ora chiede scusa, poi debba essere oggetto di una campagna che per mesi, perché questo, a mio parere, non stiamo parlando di ladri o delinquenti, stiamo parlando di una persona per bene che ha detto una cosa che non doveva dire e che per questo si è scusato dopo poche ore. In un paese come il nostro questa cosa certamente lascerà un segno e quindi creerà delle difficoltà, ma finisce così, con le scuse dell'interessato. E così Gentiloni sulla vicenda Poletti. Alessandro Plateroti, affrontiamo adesso il tema banche. Ricordiamo il forum anche al Sole 24 Ore, c'è stato questo forum al Sole 24 Ore, ospite il ministro dell'economia Padoan. un tuo giudizio, Alessandro, e poi andiamo ad ascoltare il ministro su come il governo ha gestito tutta la vicenda Monte dei Paschi, ma anche il decreto salva risparmi. Allora, giudizio immediato su parliamo sempre di Gentiloni adesso, no? Poi vediamo Gentiloni, quando io credo abbia fatto anche lui soltanto un po' un eccesso di trionfalismo, perché dice abbiamo messo in sicurezza il sistema bancario. Non abbiamo messo in sicurezza il sistema bancario, abbiamo avuto un'idea su come metterlo in sicurezza. Dobbiamo tutti vedere concretamente che cosa si farà. Quindi quando lui dice adesso abbiamo risolto il problema, non è così. Avrei preferito comunque che dicesse abbiamo gettato le basi per risolverlo, perché altrimenti dopo, se le cose non vanno bene, come lo stesso Gentiloni metteva in evidenza prima su Poletti, questo è un paese dove ti inseguono per un anno ripetendo che tu hai detto così. Per cui ricordiamo la stessa frase di Renzi, la ricordate, quella sul Monte dei Paschi, è un affare, compratelo, sì. Io la vedo riapparire sui social continuamente, quindi attenzione alle parole tutti quanti, questo è il momento che bisogna ponderarle bene, cosa che non ha fatto Poletti. E mi ha fatto molto ridere Gentiloni quando ha detto condivido pienamente le scuse. Condivido pienamente le scuse, non il concetto, le scuse. Vabbè. Le scuse. Esatto, quindi questo è un punto importante, attenzione, perché il sistema non è in sicurezza, il sistema in questo momento ha a disposizione un fondo che non l'ha ancora, perché poi lì parliamo tutto sulla carta ancora, attenzione, però la carta c'è, un fondo di 20 miliardi che dovrà servire a degli interventi straordinari. Io mi auguro che quello del Monte sia l'unico, potrebbe non esserlo. Certamente quello che posso dire è che l'ha fatto bene anche Gentiloni quando ne parla con cautela, qui siamo su territori sconosciuti, quando parliamo di salvataggi bancari non ci sono situazioni che sono raffrontabili a questa in Europa, perché tutti gli altri salvataggi in Europa sono avvenuti prima del 1 dicembre del 2016, quando entrò in vigore il bail-in. Quindi noi ci stiamo muovendo su un territorio nuovo rispetto a quello che è stato i precedenti aiuti di Stato nel settore bancario, con una crisi bancaria di una banca che era la quarta banca italiana, ma che purtroppo ora i conti gli erano svuotati, i correntisti spaventati, gran parte delle azioni sono finite solo tra fondi speculativi e gli hedge fund o i vulture funds, chiamiamoli come vogliamo. Quindi non è una banca che in questo momento mi mette in rischio tecnicamente la tenuta di tutto, sì, il sistema, sì, bancario italiano, però in un momento come questo, a Natale, con un governo di transizione o quantomeno di emergenza, con un'Europa che è allo sbando e con cui non ho più veramente un dialogo, vedete, lo stesso Gentiloni e anche Padoan, a noi la prima cosa che ha detto è l'opacità della BCE, ma voi immaginate se un anno fa il governo italiano... Ma nessuno di noi, era quasi un reato contestare Draghi qua, attenzione, però adesso si fa, quindi vuol dire che comunque si è tirata molta roba. A questo proposito volevo farti notare agli ascoltatori, sì, un aspetto interessante: è la prima volta che alla conferenza di fine anno un premier non mette l'Europa fra le priorità, come hai detto tu stesso quando hai aperto con me il collegamento, il mezzogiorno, quali erano i quattro punti? Erano tre punti, erano lavoro, sud... E andiamo a riprendere. Guarda, è importante questo, sì, perché non ha messo l'Europa. È vero, è vero. Sì, lavoro sud e crescita. Esatto. Dov'è? Non è una cosa da poco, questi sono discorsi che vanno misurati non soltanto su quello che si dice, ma su quello che è sparito. Certo, certo. E questa è una questione, perché di Europa abbiamo sentito parlare esclusivamente nei termini che ci stanno mettendo in bastone. Allora, di Europa, Alessandro, perché di fatto poi è vero che non sono i vertici europei, ma parliamo della Banca Centrale Europea e della vigilanza. Comunque sono sempre rapporti con organismi esterni allo Stato e che hanno sempre un atteggiamento, secondo me, un po' da bacchettatori nei confronti del nostro paese, c'è la vigilanza della Banca Centrale Europea. E ricordavamo il forum del Sole 24 Ore che ha ospitato il ministro Padoan. Andiamo ad ascoltare allora le sue parole sul fatto che in pochi giorni abbiano previsto la BCE prima un salvataggio, miliardi necessari per Monte Paschi pari a 5 miliardi, e poi nel giro del weekend di Natale si sia arrivati quasi a 9 miliardi. Sentiamo allora il commento di Padoan. Quindi questa decisione non è contestabile, perché la vigilanza è un'autorità indipendente. Detto questo, sarebbe stato quantomeno utile, non dico gentile, quantomeno utile avere dalla BCE qualche informazione in più, che poi uno si ricava facendo due conti, su come si è arrivati a 8,8, perché quello è il vero problema, non tanto che la cifra sia grande o piccola, più grande di quello che uno si aspettasse, così, ma quali sono i criteri con i quali si arriva a decidere che ci vuole 8 e 8. Perché questo ha a che fare con appunto la valutazione da parte dell'autorità di sorveglianza dello stato di salute di una banca. E questo naturalmente ha una valenza per quella banca, ma anche per le altre eventuali banche che sono normalmente in condizioni sottoposte a valutazione del fabbisogno di capitale. Quindi una spiegazione di perché si arriva a 8 la dice anche lunga sul modo di pensare delle autorità, che è una cosa fondamentale da sapere per le altre autorità e per le banche, così le banche private si regolano quando vanno alla BCE per chiedere l'autorizzazione, che ne so, per un aumento di capitale, per una merger and acquisition, insomma, qualunque operazione che richieda l'approvazione dell'autorità. Quindi se la BCE, oltre a mandare una lettera molto criptica con due cifre, avesse accompagnato la nota con qualche rilevazione, sarebbe stato utile. Penso che sia un contributo alla trasparenza e un contributo che fa bene a tutti. Altrimenti i sospetti, ma io non ho sospetti, diciamo, se non si hanno informazioni, per definizione le cose opache invitano a pensare in modo che può essere sbagliato. Ecco, le cose opache invitano a pensare male, dice il ministro dell'economia Padoan. Alessandro Plateroti, siamo in chiusura di questo blocco, ti chiedo un commento brevissimo su queste parole alle quali eri presente. Io ieri l'ho detto anche al ministro Padoan nel corso dell'incontro che abbiamo avuto qui. Io non sono molto d'accordo nel merito con la nostra critica e vi spiego anche perché. Ci sono due approcci ai salvataggi bancari. Il primo approccio è quello privato, quello che avevamo. Abbiamo fatto il Monte dei Paschi di Siena, non il governo italiano, ha mandato un documento dicendo: io con 5,5 miliardi più gli NPL che vengono, le sofferenze che vengono liquidate attraverso la cartolarizzazione, sono in sicurezza. La BCE esamina i dati e dice: sì, è vero, bastano 5,5 miliardi. Dopodiché arriva lo Stato e dice: no, qui bisogna, non ce la fanno, non è più un salvataggio privato ma un salvataggio pubblico. Questo che cosa implica pubblico? Che, come dicono in America, one shot, un colpo solo. Ovvero, una volta che entra lo Stato, io tra 6 mesi non voglio risentire aumenti di capitale. Certo. Allora è ovvio che alzano l'asticella con il governo fate italiano. Le cose fatte per due motivi. Bene, uno, sì. Esatto, se lo fate una volta e poi uscite, non che mi fate un altro aumento come è avvenuto col Monte ogni 6 mesi. Secondo punto, e questo è quello sostanziale, ti mettono alla prova. Quanto sei serio? Vediamo. Certo, ecco, show me the money, mettiamo sul piatto i soldi e vediamo quello che c'è. Detto questo, attenzione, perché quello che dice Padoan è anche corretto quando dice: insomma, non puoi liquidarmi con una lettera che mi dice invece di mettere 5 metti 9, arrivederci, perché questo non è un'usura, non siamo al Monte dei Pegni ma al Monte dei Paschi. Secondo punto, esistono delle strade istituzionali per lui per sapere meglio, e ne dico due. Uno, la lettera formale, basta mandare una lettera a Draghi chiedendo spiegazioni e ti risponde per legge e per regolamento. Sì. Due, ricordiamoci che dentro il board della BCE c'è la Banca d'Italia, alzassero il telefono e chiedessero alla Banca d'Italia, perché in tutta questa storia è stato il grande assente. Grazie ad Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore, soprattutto per la sua disponibilità. Noi ci fermiamo e diamo spazio al traffico. Focus Economia. Di nuovo insieme Focus Economia, la giornata in borsa, la commentiamo con Paolo Paronetto, collega di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Paolo, come ha chiuso oggi allora Milano? Sì, buonasera a tutti. Milano ha chiuso in lieve ribasso, il FTSE MIB un calo dello 0,18%, il FTSE Euro Share dello 0,17% e un lieve calo ha segnato tutte le principali borse continentali. Diciamo che è stata una seduta priva di particolari spunti, con volumi già abbastanza festivi e all'insegna della cautela. Vista l'incertezza, insomma, vista le attese soprattutto per quelle che saranno le novità del prossimo anno, a partire da quali saranno le vere azioni messe in pratica dal nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, gli investitori hanno preferito stanno sposando in questo fine d'anno un atteggiamento di cautela che appunto ha portato gli indici poco sotto la parità. Ecco Paolo, mi sembra che per quanto riguarda Milano, parliamo dei bancari, sospesa ancora Montepaschi, il trend negativo per questo settore stia proseguendo. Sì, un'altra seduta di vendite sul settore bancario, come ricordavi tu, MPS rimane naturalmente sospesa, anche se è sempre il tema di primario rilievo. In un'intervista certo. Sulle 24 ore il ministro dell'economia Piercarlo Padoan si è detto perplesso per i metodi di conteggio della BCE sul deficit patrimoniale MPS, ma ha anche sottolineato che il governo non ha grossi margini di intervento, che quindi con ogni probabilità il piano di ricapitalizzazione della banca dovrà procedere nella misura indicata dalla BCE. Oltre a MPS, altro tema di incertezza sul settore è quello della vendita delle quattro, o almeno di tre delle quattro good bank che dovrebbero andare a UbiBanca. Oggi si sono riuniti i consigli dell'istituto guidato dall'amministratore delegato Victor Massano, ci sono ancora delibere che forse potranno arrivare entro fine anno. Diciamo che è un altro tema di incertezza che pesa anche su Ubi come potenziale acquirente, visto che il mercato fatica a vedere la razionale industriale dell'acquisizione di queste tre piccole banche che, ricordiamo, sono nate dalla risoluzione delle precedenti istituti. Quelle sono di fatto le good bank, la parte buona delle quattro certo. banche che sono state pulite dai crediti deteriorati. Ecco Paolo, bene invece i titoli energetici. Ieri vedevamo, anche in funzione del rafforzamento del prezzo del petrolio, invece oggi sono andati bene anche e soprattutto i titoli legati al comparto elettrico. Sì, diciamo che soprattutto si tratta delle utilities, quindi titoli prettamente difensivi che spesso sono in evidenza quando prevale la prudenza sull'intero mercato. Terna è salita del 2,14%. E Snam dello 0,98%, Italgas dello 0,87%. È stata una seduta abbastanza altalenante invece per i petroliferi, che comunque a Piazza Affari hanno chiuso in rialzo anche oggi: Eni più 0,85%, Saipem più 0,47%, nonostante sul finale il petrolio abbia iniziato a ripiegare un po'. Il WTI sta perdendo adesso lo 0,31% dopo l'aumento inatteso delle scorte statunitensi nell'ultima settimana, registrato dai dati del Dipartimento dell'Energia americano. E poi la vicenda Vivendi Mediaset. Paolo, ricordo le parole oggi del Presidente del Consiglio Gentiloni, dice: l'attenzione vigile del governo sulla vicenda consiste nel fatto che siamo consapevoli dell'importanza di Mediaset in Italia, ma non ci sono golden power da esercitare in questo settore, quindi la posizione del governo è vigile dal punto di vista politico. Invece dal punto di vista economico oggi il titolo? Beh, diciamo che anche qui dal punto di vista economico si stanno un po' tranquillizzando, almeno forse per il momento, le cose, in attesa di capire quali saranno gli sviluppi. La speculazione sembra un po' raffreddarsi, il titolo oggi ha chiuso in calo dello 0,54%, ma è soprattutto sui volumi che si vede questa fase di normalizzazione. Sono stati scambiati oggi 9 milioni di azioni Mediaset contro una media di 26 milioni, e soprattutto per la prima volta da circa 15 giorni che si chiude una seduta con meno di 10 milioni di titoli Mediaset scambiati. Come ricordavi tu, il Presidente del Consiglio ha sottolineato che non può intervenire nella vicenda, diciamo che spegniamo un po' a raffreddare la speculazione su una possibile offerta pubblica di acquisto di Vivendi. C'è la possibilità da parte dell'AGCOM di vietarla in caso venisse lanciata con determinate caratteristiche. Diciamo che anche su questo fronte si aspetta l'anno nuovo, direi. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Noi passiamo al nostro ultimo approfondimento. E parliamo del decreto mille proroghe approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Lo facciamo con Giovanni Parente, collega del Sole 24 Ore. Buonasera Giovanni. Buonasera a voi. Giovanni, grazie della tua partecipazione. Ci siamo sentiti sempre qui in trasmissione martedì, dove preannunciavamo un po' i provvedimenti che sarebbero stati oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Alla fine cosa è stato approvato? Alla fine ci sarà il salvagente per i 40.000 precari della pubblica amministrazione, che quindi resteranno ancora un altro anno, quindi però tra essere confermato il loro contratto. Soprattutto c'era un problema legato all'entrata in vigore della norma prevista dal Jobs Act, che avrebbe tagliato fuori i contratti di collaborazione con rete continuativa per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni. Quindi viene rinviata di un anno questa tagliola e c'è la possibilità per le pubbliche amministrazioni quindi di continuare a valersi di contratti a termine e quindi non paralizzare l'attività degli uffici pubblici sia a livello centrale che a livello locale. E Paolo, Giovanni, scusami, per quanto riguarda le valvole del riscaldamento, un argomento che sembra abbastanza marginale ma che invece interessa tanti condomini. No, invece è proprio un argomento che tocca tantissimi italiani, in quanto c'era un obbligo di legge che fissava il 31 dicembre 2016 la scadenza per adeguarsi alle cosiddette termovalvole, che sono sostanzialmente dei meccanismi regolatori del calore all'interno dei singoli appartamenti, pena sanzioni che potevano andare da 500 a 2500 euro. Anche grazie al pressing delle associazioni di categoria, di proprietari come Confedilizia, si è riusciti a strappare una proroga di 6 mesi, quindi insomma l'obbligo dovrà essere in qualche modo attuato entro il 30 giugno Perfetto. Del 2017. Benissimo, grazie a Giovanni Parente, Sole 24 Ore, per oggi è tutto, un ringraziamento a Barbara Bianchi per l'assistenza al programma, ad Andrea Roccabella e Filippo Aureggi in regia, un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24, libera la voglia di fare.